Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Stati Uniti. Annuncia in chat il delitto dell'ex moglie, ma lo rivela proprio alla sua vittima. Ah, ci fossero stati al tempo del muro di Venezia Facebook, gli iPad e i localizzatori satellitari. Sarebbe bastato, a Otello, seguire gli spostamenti di Desdemona su Google Earth per capire che non c'era ragione alcuna di credere alle insinuazioni di Iago. E Shakespeare, forse, ci avrebbe raccontato una storia un po' più simile a questa strana vicenda capitata a South Bend, contea di St. Joseph River, Indiana. E Marcel? Cosa ci avrebbe detto di più Marcel del suo amore per Albertine, della gelosia che lo strazia ad ogni assenza di lei, del fastidio che gli procura invece la sua presenza? Ah, l'amore al tempo della tecnè, come si complica a volte, fino a sfiorare il delirio. Già, perché Angela e David di South Bend nell'Indiana non s'amano più dopo 10 anni di matrimonio e hanno finalmente deciso di separarsi, di non vivere più insieme. Giusto, saggia decisione, per il bene dei figli si intende. Ma ci sono tanti modi di non amarsi più e loro a conti fatti è davvero molto strano. David non ama Angela, non la sopporta più, ma le ha messo in macchina un satellitare GPS per seguire tutte le sue mosse. Non l'ama, non la sopporta, ma adesso che si sono separati vuole sempre sapere dov'è, cosa fa, chi frequenta. Angela, a sua volta, non ama più David, no. La detesta, anzi, profondamente. Non è più l'uomo di cui si era innamorata 10 anni fa. Oppure 10 anni fa lei era semplicemente accecata dall'amore e non aveva visto che razza di viscido mostro si celasse in lui. Angela non ama David, lo detesta profondamente, ma assumendo il falso profilo di una Jessica di 10 anni più giovane lo ha agganciato su Facebook per scoprire se ha un amante o se è ancora disponibile lui ormai 38enne alle avventure con le fanciulle in fiore. Eh già, Angela non ama David e David non ama Angela. Ma ad Angela dà fastidio sapere che David non l'ama più, e David di fatto non l'ama più, ci puoi giurare, ma gli dà fastidio di non essere più amato da lei. E reciprocamente si spiano, con tutti i mezzi che la tecnologia mette a loro disposizione. Nessuno dei due, evidentemente, ha mai letto Proust. E così avviene il fattaccio: su Facebook David comunica alla pseudo Jessica, che in realtà è Angela, che sta meditando di uccidere Angela, la sua ex moglie, facendola saltare in aria con la dinamite. Angela, inorridita, lo denuncia subito alla polizia, adducendo come prova lo scambio di messaggi. David dice agli inquirenti di aver capito immediatamente che la Jessica di Facebook era un avatar di Angela, chi altri poteva essere con tutte quelle domande sulle sue relazioni intime, e di aver giocato con lei così, solo per spaventarla. Fatto sta che gli hanno trovato davvero in casa i candelotti con cui meditava, forse, di farla saltare in aria. Oppure anche questa era solo una trappola come tutte le altre? Sul caso negli Stati Uniti si sta ancora indagando, ma su quale reato non c'è ancora nessuno che abbia le idee chiare. Francesco Fioretti, in libreria con Il libro segreto di Dante, Newton Compton Editore, 277 pagine, 9,90 €. Per riascoltare e scaricare tutte le storiacce del sabato e della domenica, www.radio24.it, alla voce podcast. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog. Ciao a tutti, al prossimo weekend!